Nella testa c'è una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti tuo zio per almeno questa sera. Nella testa c'ho una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera, sera, sera. Tu dammi solo una parentesi, io mi rifugio in oltre tratti contratti di quarti a 16. Tu lascia indietro i tuoi demeriti, perché di sbagli ne farai. Qui l'importante è crederci. Se buttate merda nel magnifico, in voi non mi identifico, pieni nel valore ma in senso estetico, ma vuoti come il mio frigorifero, e mi chiedo se avete qualcosa in più oltre agli abiti che vedo. Tu dammi solo sti frammenti di un'importante sommatoria tra gioia e sogni colerici. Le esperienze non le erediti, cosa spinge il vero, io spingo il pensiero, giunta l'ora di difendersi. Se Milano Sud in ogni traccia con frequenza, Milano suddita della banale tendenza, e non ci vuole una scienza per capire che si clonano, sono tinte piatte copiate che non si sfumano. Nella testa c'è una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera. Nella testa c'ho una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera. È logico, manco con un buon ottico, ma pari nell'albero genealogico, nella famiglia nei più cari a rischio il tuo zio. Saluto da imbarazzo, se la TV veste largo te il tuo gruppetto del cazzo. Falso ogni passo dettato dalla moda, riempi armadi, riempi bocca da una cultura che non ti tocca scotta, ma non la puoi comprendere, la foto tua è un accendino che ti sta per spegnere, per perdere credibilità 2009. Ormai ognuno può fare rap, su questo non ci piove, però sono poche le persone che spingono sostanze, il resto inganna con tanta immagine e apparenza. Sentenza, il testo scarseggia l'onesto, il resto è composto da scarsi che detesto, in un posto dove fai due rime tra i diari solo perché l'altro giorno la mamma ti ha comprato i carcani. Nella testa c'è una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera. Nella testa c'ho una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera. Vorrei che la mia musica portasse un suono nuovo, suono d'oro nell'udito monotono di un mondo d'avorio. Circolatorio apparato fluisce, cresce, si insinua nel sangue, sale dalle gambe, se glissa riemerge. Sussurra sommessamente il suo addio, se rimbalza da un orecchio all'altro e rimbomba nel mio, mio Dio. Ipoteticamente note in stasi, do re mi fa sol la si, zero break beat, V doppia massive. Do tappie marina ai miraggi, tra gli equipaggi, talleni nei sargassi, da reni correvi guasti. Cammino su fiumi di vetro a piedi scalzi, cammino in buio, causo il plenilunio, plasmando linguaggi. Musica elefante, viaggio al centro, stufa al tropico, inverto di concetto e lo converto in un contesto storico, ideali, sogni cari e giorni amari, imprigionati tra l'inchiostro di armi anticonvenzionali. Nella testa c'è una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera. Nella testa c'ho una storia vera, sopra i rullanti una storia vera, Pose e William fanno una storia vera, tieniti il tuo zio per almeno questa sera.